Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle 21:30. E ora andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione, ovvero il brano Retribution dei Behind Enemy Lines. Bene, questa era la sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che andrà avanti fino alle ore 21:30 e completamente in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. E ora, dopo questo brano che era la sigla, che è di una band statunitense, i Behind Enemy Lines, che il brano è Retribution. Ora invece andiamo all'ascolto di questa band inglese, esattamente una band inglese degli anni, primi anni 80, anzi lì proprio i primi esordi, fine anni 70, esattamente dal 79, Loro all'attivo hanno fatto alcuni album, tra cui quello che ora andiamo ad ascoltarci, un paio di brani estrapolati da questo album datato 1984. Loro sono i Lost Cherries, e questo è il loro album All Part of Growing Up del 1984, esattamente il loro secondo album. E niente, andiamo all'ascolto di un paio di brani di questa band inglese della zona di Londra, anzi proprio per fare i precisini dell'area sud di Londra. Thank you. Bene, stiamo ancora all'ascolto di questi Lotz Harris, band anarcho-punk inglese dei primi anni 80, da questo loro album All Part of Growing Up, datato 1984. E ricordo che siamo in diretta radiofonica da questi studi di radio Onde Furlane, trasmissione che viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione. E cosa che solitamente facciamo alla fine della trasmissione, ma oggi lo facciamo anche all'inizio, ovvero i nostri le nostre dritte per contattarci, ovvero potete scriverci tramite posta elettronica alla mail liberetutti@autistica.org. Ripeto, liberetutti@autistica.org, e inoltre potete farlo anche scrivendo in forma cartacea alla casella postale 129, intestandola ad Associazione Senza Sbarre 34121 Trieste Centro. Ripeto, casella postale 129, intestazione ad Associazione Senza Sbarre 34121 Trieste. Inoltre potete risentire questa trasmissione di oggi, eppure tutte le scorse edizioni, tutti gli scorsi giovedì, andando nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. ricordo anche questa, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. bene, rimaniamo all'ascolto ancora di un brano, insomma quello che rimane di questi Lotz Harris. Bene, un saluto a tutte e a tutti quelli e quelle che ci ascoltano, anche da parte mia. In scaletta questa sera abbiamo messo proposte anarchiche contro la guerra, niente di che, saranno semplicemente, andremo a leggere dei testi che abbiamo selezionato questi ultimi giorni riguardo alla situazione che c'è, insomma, a livello internazionale. Incominciamo con un articolo dal quindicinale anarchico internazionalista Bezmotivny, del numero 5 del 7 marzo, e si intitola Quando tuona diluvia. E quindi se mi metti anche un po' di musica, così si sente anche un po' di presenza musicale sottofondo. Niente, no, intanto che selezioniamo la musica, aggiungo che Bezmotivny non vuol dire altro che senza motivo, e si ispira a quei gruppi presenti all'inizio del Novecento, proprio nelle zone russe, bielorusse, ucraine, così della, dentro i confini anche della Polonia di quell'epoca, e che erano caratterizzati, insomma, erano gruppi nichilisti, gruppi individualisti, nichilisti, insomma, che passavano l'azione diretta e provocando anche, insomma, il terrore presso, specialmente presso quelli a cui il terrore andava indirizzato, Bezmotivni. Allora, non sembra che siano state le motivazioni economiche ed energetiche a spingere la Russia all'invasione, bensì quelle legate agli equilibri tra le potenze. Tuttavia, l'aspetto economico è entrato in campo a gamba tesa, quasi immediatamente. Gli Stati Uniti, l'Europa, persino la Svizzera, hanno immediatamente varato sanzioni contro la Russia. Ma chi vanno a colpire queste sanzioni? Sono banalità che però vale sempre la pena di ricordare. Effettivamente, tra i magnati russi e i contadini o gli operai e i pezzenti delle città, chi finirà i soldi per primo? In tanti in Europa affermano che si vuole ridurre Putin alla fame, ma sanno bene che non è il judoka del KGB che si troverà a faticare ad arrivare a fine mese. Sono i padroni di qualsiasi nazione il nostro nemico, e non sarà mai la guerra a portare ricchezza agli sfruttati. Quando qualche potenza si sarà assicurata il controllo del gas, non saranno i pezzenti di nessun paese a guadagnarci, saranno i ricchi a diventare ancora più ricchi. La retorica di guerra portata avanti dal governo di unità nazionale ci ha detto il contrario, presentandoci come attori buoni e neutrali che devono prendere parte sotto la bandiera democratica all'avanzata per la pace e la prosperità di tutti i popoli, compreso il nostro. Ci viene richiesto, sostenendo che convenga alle nostre tasche, di stringerci a corte con i nostri assassini per portare avanti una guerra che è pace, pace fatale. Con la retorica degli italiani brava gente, vorrebbero farci credere che non abbiamo nulla a che fare con le vittime di guerra, vicine e lontane, mentre siamo circondati da produttori e esportatori di morte. In Italia sono presenti almeno 40 testate nucleari nelle varie basi americane sul territorio. Droni e aerei sono partiti per l'Ucraina dalla base di Sigonella e tante sono le fabbriche di armi e le aziende produttrici di morte. Su tutte la Leonardo Finmeccanica, ma anche la Otto Melara, la Beretta, la Fiocchi, la Tecnel o l'Intermarine e tantissime altre aziende coinvolte nella filiera di guerra. La guerra non serve ad altro che arricchire i padroni e impoverire e ammazzare noi schiavi. Per fermarla dobbiamo cominciare da casa nostra. In questo senso, l'attenzione e l'attività a cui dedicarci non è per nulla distante da quella dei tempi di pace. Contrapporre al ricatto del lavoro degli stessi padroni e quindi della stessa organizzazione di guerra lo sciopero generale quotidiano a oltranza sarebbe una possibile e efficace azione. Rigirare perciò il coltello che ci puntano ogni giorno ricattando economicamente lo Stato, bloccare il trasporto di uomini e armamenti, sabotare la produzione. Qui si parla di ripagare con la stessa moneta lo sfruttatore, portare la diserzione in fabbrica, in magazzino, a scuola, in tutti i luoghi di lavoro e, così facendo, colpire ciò che stabilisce l'esistenza del piedistallo che tiene in piedi lo Stato, l'esigenza di fare profitto. La responsabilità, già gravissima, è prima di tutto nelle mani di quei rivoluzionari anarchici che vogliono diffondere il miglior delitto tra gli tra gli sfruttati, la rabbia contro lo Stato. Solo questa rabbia potrà fermare tutte le guerre per sempre. La risposta la troviamo nella guerra sociale per la rivoluzione anarchica. Passo al secondo articolo, al secondo testo di questa sera, si intitola Logiche di guerra, ed era uscito questi giorni, insomma l'altra settimana, è tradotto dal francese, insomma su un blog, si intitola Avis de Tempête. Logiche di guerra. Energia. Tra i vari pacchetti di pompose sanzioni stabilite dagli stati occidentali per colpire il loro omologo russo, alla testa come alla base, si saranno potuti notare alcuni evidenti trucchi. Tra le grosse eccezioni a queste sanzioni, che sono alla loro quarta raffica, troviamo infatti le esportazioni russe di materie prime energetiche, petrolio e gas e minerari. E ciò capita a proposito, dato che la Russia produce, guarda caso, il 40% del palladio e il 25% del titanio di tutto il pianeta, essendo tra l'altro il secondo più grande produttore mondiale di alluminio e di gas, così come il terzo di nichel e petrolio. Tutte materie i cui prezzi si sono impennati a partire dall'inizio dell'invasione del territorio ucraino, procurando maggiori entrate monetarie alla Russia, che d'altronde le vengono fornite in gran parte dai potenti degli stessi paesi che emettono incessantemente grida di sdegno umanitario riferendosi alla situazione attuale. A titolo di esempio, dall'inizio di questa guerra, l'Unione Europea versa ogni giorno alla Russia più di 400 milioni di dollari ogni giorno, 400 milioni di dollari per il gas e quasi 280 milioni per il petrolio, incassati direttamente attraverso due banche risparmiate dalle sanzioni finanziarie e non a caso, ovvero Sberbank e Gazprom Bank. E vi risparmiamo i giganteschi importi di tutto il resto, indispensabile sia all'industria automobilistica occidentale, palladio, che alla sua aeronautica e alla difesa, titanio, o alle batterie elettriche, nichel. Quando si dice che la guerra comincia qui, spesso sembra una semplice rielaborazione di un vecchio slogan ideologico del secolo scorso. Ma se qualcuno arrivasse oggi a chiedersi chi finanzia di fatto l'attacco russo, dovrebbe rivolgersi precisamente verso gli stessi che finanziano il campo avversario, vale a dire la difesa ucraina. Si tratta in particolare del sistema tecno-industriale degli stati occidentali, che non smetterà di girare a pieno regime per così poco, visto che la guerra, i massacri, le devastazioni sul pianeta fanno già intrinsecamente parte del suo funzionamento. Per colmo di ironia, esistono allora interessi diversi che i due stati belligeranti si guardano bene dal mettere in mostra in questa guerra assassina, per non danneggiare i loro comuni finanziatori occidentali, i due enormi gasdotti Brotherhood e Soyuz, provenienti dalla Russia, che attraversano poi tutto il territorio ucraino prima di dirigersi verso la Germania e l'Italia. Un po' come nessuno dei due belligeranti vuole toccare altri obiettivi sensibili per la propria economia nazionale, quanto vitali per le industrie aeronautiche della difesa europea, soprattutto Airbus e Safran. Vedi, la fabbrica di titanio del gruppo VSMPO a Visma, situata nella città ancora sotto controllo ucraino di Nikopol, è tuttavia proprietà diretta del principale esportatore del complesso militare industriale russo Rosoboro Export. Quel che potrebbe sembrare un paradosso è in realtà l'amara illustrazione di una delle caratteristiche delle guerre interstatali. Sebbene le scatenino spudoratamente attraverso l'odio nazionalista, religioso o etnico, raramente sono i potenti a farne le spese, essendo ovviamente in grado di accordarsi fra loro in caso di necessità. Ma sono le popolazioni a subirne le conseguenze mortali. In materia di energia come di equipaggiamento militare, i finanziatori e i profittatori della guerra sono ugualmente qui, ed è anche qui che si possono combattere. Uno dei vantaggi della creazione di piccoli gruppi autonomi che decidano contemporaneamente i loro bersagli e i loro tempi, per chi qui guardasse la guerra con un occhio altro o altrove non avesse l'opportunità di fuggire o decidesse volontariamente di restare, può quindi consistere, ad esempio, nel sabotaggio degli interessi capitalisti e strategici comuni ai leader dei due stati e dei loro alleati, non potendo più servire in seguito né all'uno né all'altro, quale che sia il vincitore. Un'altra possibilità, certo, ma che però non può cadere dal cielo vista le difficoltà da affrontare, richiede forse di essere già sviluppata e preparata prima, in particolare con l'aiuto di strumenti organizzativi che facilitano la condivisione di sforzi, conoscenze e mezzi adeguati. Questa vecchia questione degli interessi in gioco già agitava del resto le reti di partigiani francesi sotto l'occupazione tedesca, il cui comando, come i servizi anglo-americani insistevano ovviamente sul fatto che il loro sabotaggio industriale di tali siti e strutture sensibili restassero soprattutto reversibili, limitandosi a rallentare la produzione nemica o distruggevano solo obiettivi non critici alla futura ripresa del paese. Affermare che in tempo di guerra lo Stato si impone col pugno di ferro ancor più che in tempo di pace, non solo sulle menti ma anche sui corpi di tutti i sudditi, non è una semplice banalità trita e ritrita. Carne da cannone o carne da bombardamento, alla ricerca di cibo o di complici per auto-organizzarsi al di fuori della morsa statale, cioè semplicemente per respirare un'altra aria rispetto alla promiscuità dei rifugi o per comprendere la situazione da sé, ogni individualità è indotta a annullarsi volente o nolente sulla scacchiera dei due eserciti che si fronteggiano. Una situazione che ovviamente si estende fino ai confini occidentali dell'Ucraina, che più di 3 milioni di rifugiati hanno già oltrepassato, dopo essere stati debitamente controllati per scartarne gli uomini tra i 18 e i 60 anni. Se un'ondata di mutuo appoggio con le famiglie si è diffusa su entrambi i lati del confine, uno degli aspetti più rimarchevoli concerne tuttavia la solidarietà che comincia a instaurarsi, nonostante l'ostilità di una parte degli abitanti, verso coloro che rifiutano di combattere e non hanno la possibilità di pagare 1.500 euro alle guardie corrotte della frontiera ucraina. In particolare, grazie alla compilazione di falsi certificati medici o all'assegnazione di passaporti biometrici, unico documento ufficiale accettato in Ungheria o in Romania durante le prime due settimane di conflitto per far entrare i rifugiati nel proprio territorio. smistare, selezionare, dare priorità, registrare, classificare per separare le frontiere i poveri buoni da quelli cattivi non è ovviamente una specificità dello Stato ucraino in guerra, ma la continuità di un vasto inferno di collaborazioni interstatali, di contrattazioni economiche e di imperativi geostrategici. Così gli uni sono condannati a annegare nel Mediterraneo, altri a marcire nei campi ONU per rifugiati al fine di essere smistati nei vicini territori e gli ultimi a servire gloriosamente la loro patria o come schiavi salariati nei paesi ricchi sempre in cerca di manodopera a basso costo da sfruttare. Perché in fin dei conti la ferocia del potere, che non si rivela mai tanto quanto nelle guerre, nella miseria e nei massacri che genera, consiste forse anzitutto in questo, la sua intrinseca pretesa di spadroneggiare in nome dei propri interessi nel territorio che controlla, cercando di trasformare ogni essere che comanda in suddito sostituibile a costo del suo annientamento come individuo. Allora, andiamo alla lettura dell'ultimo testo che vi propongo, che vi proponiamo stasera in merito all'essere contro la guerra. Questo è un testo che è uscito, mi sembra, questa settimana sul blog di Controinformazione Il Rovescio. Il titolo è Idee per la ricreazione. Andiamo a leggerne alcuni stralci. Proprio perché in questi due anni di emergenza abbiamo avvertito dentro e fuori di noi quanto pesi la forza di gravità sociale sulle scelte e sui discorsi di tutti i giorni, possiamo immaginare dentro quale turbinio si trovino oggi le anarchiche e gli anarchici in Ucraina. Se il loro drammatico che fare merita la più fraterna delle attenzioni, su alcune cose di fondo non possiamo tacere, pur sapendo quanto sia comodo parlare lontano dalle guerre, dalle bombe. Ma è proprio perché certi dibattiti diventano quasi impossibili quando la guerra è in casa, le questioni vanno poste con chiarezza, laddove si può ancora fare. La popolazione ucraina, d'altronde, non aspetta certo il nostro parere per decidere come comportarsi. Il nostro peso di internazionalisti è talmente leggero che sarebbe il colmo mettere sulla bilancia delle idee sbagliate. Collaborare con lo Stato ucraino contro l'invasione russa e cercare di ritagliarsi dentro quella collaborazione una propria autonomia di azione è, a nostro avviso, un grave errore. Non solo perché in tal modo si contribuisce a continuare la guerra, ma perché si combatte, volenti o nolenti, per conto della NATO e del capitalismo occidentale. Lungi da noi negare la violenza del regime russo, i nostri compagni russi torturati dai servizi segreti o i rivoltosi kazaki repressi nel sangue dai soldati di Mosca ci ricordano cosa vuole dire vivere sotto quel tallone di ferro. Ed è normale che a quelle latitudini il potere dello Stato russo venga avvertito più direttamente della longa manus dell'imperialismo occidentale. Così come giova ricordare che di fronte all'oppressione non siamo mai, in quanto abitanti di zone diverse della terra, del tutto contemporanei gli uni degli altri. Ma se c'è un paese dell'est dove è fin troppo chiaro cosa rappresenti il gioco del Fondo Monetario Internazionale e cosa comporti avere gli addestratori NATO in casa, questo è proprio l'Ucraina. Mentre alcuni milioni di ucraini sono emigrati nell'ultimo decennio, soprattutto ucraine, sono emigrati nell'ultimo decennio per sfuggire alla miseria, migliaia di neonazisti sono stati armati, preparati militarmente e poi integrati nell'esercito ucraino, preparati dagli Stati Uniti d'America. Che il regime di Putin abbia le proprie mire di potenza è certo, ma che la responsabilità maggiore della guerra in corso ricadano sull'imperialismo occidentale è altrettanto certo. Una scelta coerentemente internazionalista in Ucraina comporta oggi delle posizioni decisamente impopolari, denuncia delle responsabilità del proprio Stato e del campo occidentale, rivendicazione della pace a ogni condizione, opposizione alla legge marziale e all'annullamento coatto, sostegno a tutti quelli che vogliono fuggire, impiego di mezzi di lotta, di autodifesa dell'esercito occupante che fuoriescono dalla logica di guerra e dei fronti, adottabili poi come forma di insubordinazione e resistenza contro la creazione di un eventuale governo fantoccio da parte del Cremlino. Soddisfacimento dei bisogni legati alla sopravvivenza attraverso l'esproprio di chi si è arricchito con la svendita delle ricchezze al capitale occidentale. In poche parole, pace col nemico della nazione per approfondire la guerra contro il nemico di classe, contro cui rovesciare la rabbia di una popolazione che oggi si sente abbandonata dalla NATO e dall'Occidente. Pace a qualsiasi costo non vuol dire accettare passivamente il tallone di ferro russo, bensì rispondergli con l'insubordinazione sociale, se necessario con la guerriglia, fuori dal campo e dall'armamentario della NATO, in coordinamento e in solidarietà con le lotte in Russia, Bielorussia, in Kazakistan e in altre parti del mondo, che troverebbero in quel protagonismo dal basso un esempio da seguire contro i padroni di tutte le fazioni in guerra. Perseguire la sconfitta militare dell'occupante, viceversa, implica una chiamata alle armi della NATO, cioè uno scenario di guerra mondiale, eccetera, eccetera. Propositi impopolari, senz'altro. Con quali forze attuare un simile disfattismo? Non lo sappiamo. Mai come davanti alle catastrofi che questo mondo ci sta apparecchiando, valgono le parole del poeta. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì qualche storta sillaba e secca come un ramo, codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, antimilitaristi anarchici. Sottofondo stiamo ascoltando, che tra l'altro abbiamo ascoltato anche ovviamente prima in sottofondo durante tutto l'intervento, questa band croata, esattamente di Pola, loro sono in Nulla Osta e questo è un loro album uscito nel 2006. Ovviamente questo album ha un titolo, ma non ve lo leggo, già faccio le figuracce per leggervi i titoli in italiano, figuriamoci in croato. Bene, ora invece alla fine di questa band croata che andremo a sfumare, andremo all'ascolto di un'altra band inglese, i One Way System, dal loro album All Systems Go, datato 1984, secondo album di questa band, che si è formata agli inizi degli anni 80, e anche se poi ha fatto altri album, ma tutti gli album successivi sono alla fine degli anni 90, prima nei 2000, band che si era, diciamo, riformata appunto nell'area sempre quasi londinese, insomma nell'Inghilterra, dai. E quindi sfumando questi nulla osta andiamo ad ascoltarci One Way System. I'm not the only one. Allora, in scaletta stasera abbiamo anche militanza e movimenti alla prova del 68. Io semplicemente ho selezionato un paio di testi. Il primo testo è Oltre la politica di Riccardo d'Este, Oltre la politica. Si tratta di un'intervista fatta nel 1976 e poi i compagni del Porfido l'hanno ridiffusa. E io ve la leggo per fare un passaggio tra le cose di cui parlavamo le scorse puntate e un'altra questione che sarà il secondo contributo, che questa volta sarà audio, e ve lo introduco fra qualche minuto. Andiamo con questo Riccardo d'Este. Ma torniamo al 68. Io allora sostanzialmente provenivo da esperienze di tipo operaistico e anche in certo senso spontaneistico, come ti avevo già accennato. Dopo aver rotto insieme a compagni di altre città, Padova e Genova soprattutto, e di Torino, con classe operaia, quando questo gruppo fece una scelta di tipo entrista nei confronti del PCI, scelta che io non condividevo affatto, giudicando già da allora la lotta antisindacale e antiriformista come parte essenziale nel processo rivoluzionario, continuai autonomamente il lavoro di intervento nelle fabbriche, siglando per lo più lotta di classe i nostri ciclostilati. Lotta di classe aveva il grosso limite, peraltro da noi stessi voluto, di rimanere confinata nella zona di Torino. Per un certo periodo pensammo fosse meglio non tentare neppure di darci una struttura organizzativa di tipo nazionale. Questo essenzialmente per la paura, che tuttavia rischiava di essere paranoia, di perdere il carattere di informalità e di autonomia che questa esperienza aveva per ricascare in quelle pratiche burocratiche e gerarchiche che tanto avevamo criticato nei partiti e nei gruppi. Ma evidentemente, a un certo punto, questo isolamento volontario rischiò di sclerotizzarci. Sentivamo prepotentemente il bisogno di confrontarci con altri compagni, con altre esperienze differenti, anche se ovviamente non antagoniste alla nostra. Con questo bisogno giunsi a Milano e presi contatto all'inizio soprattutto con vecchi compagni che avevano collaborato a classe operaia e che se ne erano staccati, non condividendo la scelta filo partito, che in realtà voleva dire PC, fatta dal gruppo a livello nazionale. Cominciamo a Milano a intervenire nelle più importanti fabbriche. All'inizio ci firmavamo ancora a lotta di classe, qualche volta con accanto anche il nome Potere Operaio, quando collaboravamo con qualche compagno che si rifaceva all'esperienza di quel potere operaio che, nato dalle basi teoriche di classe operaia, si stava sviluppando autonomamente, soprattutto in Veneto e in Emilia. Successivamente, anche sulla base dei contatti operai allacciati nel frattempo, editammo un numero unico intitolato Il Gatto Selvaggio, che come già titolo dice, si poneva nella prospettiva dei Wildcat Strikes, cioè le lotte selvagge, perché improvvise, rotanti e soprattutto fuori e contro ogni logica dei sindacati. Da allora, e per lungo tempo, fummo chiamati Gatti Selvaggi. L'uscita di questo giornale fu un casino, infatti un po' piratescamente avevamo scritto che il giornale era supplemento a classe operaia che non usciva più con lo stesso direttore, Tolin. Non avevamo tenuto conto dell'operazione entrista nei partiti ufficiali che alcuni ex collaboratori di classe operaia stavano ponendo in essere, né che altri intendevano formare un gruppo autonomo e che comunque entrambe le correnti erano assai preoccupate di essere coinvolte in interventi illegali di questo tipo, che ci ponevano all'estrema sinistra del movimento tradizionalmente inteso, se non addirittura fuori. Sottolineo questo fatto perché da qui, storicamente, sono nate le prime voci calunniose nei miei confronti, eccetera, eccetera. Poco dopo l'uscita del giornale e di altri testi di intervento che tra l'altro ci portarono a durissimi scontri davanti all'Alfa di Portello con i sindacalisti, da noi giustamente già da allora definiti cani da guardia padronali, iniziò con un crescendo continuo l'agitazione degli studenti. D'altra parte, io stesso stavo subendo una profonda evoluzione teorica, mi stavo avvicinando sempre più alle tesi cosiddette consiliari, che avevano avuto una loro prima formulazione nel comunismo di sinistra, Pannekoek, Gorter, eccetera, per certi versi Korsch, comunismo di sinistra storico, e che erano modernizzate da socialismo o Barbarie, che tentava di sviluppare una critica della gerarchia come struttura portante del dominio capitalista. Era un reale superamento critico e dialettico dell'elinismo e del bolscevismo vecchio e nuovo. Questi sviluppi teorici si combinavano in modo interessante con la nuova situazione data dalla ribellione degli studenti, che sfuggiva gli schemi interpretativi di un operaismo classico. E ben presto tutti noi avremmo discusso, affascinati, le tesi situazioniste. Era una svolta. Un primo intervento importante fu un documento di una quarantina di pagine, ciclostilate, intitolato, parafrasando Lenin, Chi sono gli amici del potere studentesco. Purtroppo non possiedo più neppure una copia di questo testo, ma se ben ricordo era una critica piuttosto precisa e puntuale delle posizioni, allora assai di moda, che esaltavano la possibilità di un potere studentesco che sarebbe dovuto essere un contropotere, ma che in realtà non era altro che l'espressione della separatezza del potere e del potere delle separazioni. L'analisi che sviluppavamo ci portava a esaminare la proletarizzazione crescente e la mercificazione di ogni aspetto della vita che il capitale impone in questa sua fase. Ovvio quindi che si sentisse il bisogno di unificare teoricamente e praticamente queste nuove esperienze di lotta degli studenti con le esperienze operaie che stavano divenendo antilavorative, con il serpeggiare della ribellione e del disagio giovanile come collante del bisogno di riappropriazione della vita che le singole lotte, sia pure in modo ancora separato e balbettante, stavano portando alla luce. È in questo contesto che nasce e si determina il CUB Pirelli, primo e tuttora insuperato tentativo di organizzazione diretta proletaria in fabbrica. I suoi limiti, ora 1976, mi appaiono evidenti, in ciò facilitate dal successivo sviluppo dei vari CUB, sempre più cinghia di transizione del partitino Avanguardia Operaia. Già allora Avanguardia Operaia, che era, parentesi, era un gruppo extraparlamentare, cercava di egemonizzare i CUB per diffondere le proprie parole d'ordine, politiche sindacali che altro non erano se non una riedizione del riformismo classico in chiave massimalista. Però alla Pirelli la manovra di questi ladri di passione rivoluzionaria non riuscì, almeno per un primo periodo. Questo per due fattori: in primo luogo per la presenza di un discreto numero di operai incazzati cui importava assai più rivoluzionare se stessi e creare collegamenti vivi con altri proletari antiriformisti e antiburocratici che non ottenere piccole vittorie spettacolari all'interno della gabbia sindacale; in secondo luogo per la presenza nel cosiddetto nucleo esterno di molti compagni non leninisti, libertari e anche di tendenza consiliare, che portavano decisamente avanti discorsi sulla democrazia diretta, sulla critica della società mercantile spettacolare e riprendevano insomma gli aspetti e i temi più significativi emersi dal maggio francese. I talk to the wind. Niente, allora questo era appunto uno stralcio da questo bel testo che scriveva appunto in questa intervista Riccardo d'Este nel 1976 ed è tratto da appunto da questo opuscoletto del Centro di Documentazione Porfido, che a sua volta l'aveva tratto da un libro appunto dell'Arcana. L'autrice è una certa Emina Cevro-Vukovic e il titolo era Vivere a sinistra, vita quotidiana e impegno sociale nell'Italia degli anni 70, un'inchiesta. E ve l'ho letto appunto perché c'è un passaggio da questo Cub Pirelli, poi se vi interessa andare a leggere, insomma se vi ha incuriosito, D'Este passa, insomma conosce Eddie Ginosa, Giorgio Cesarano e passa insomma con il gruppo che era stato di Lud e poi andranno avanti insomma anche dopo il 69 eccetera con questo gruppo che si chiama Comunismo dei Consigli, uscirà da Cub Pirelli eccetera. E perché ve l'ho letto? Insomma mi interessava solo dire, siccome abbiamo avuto la conferenza, insomma l'incontro con Nicoletta Puidimani in questi scorso fine settimana, dove così si è detto anche tra le altre cose come la medicina, insomma le strutture, come si chiamano, l'apparato medico si prende cura degli individui, insomma del vivente umano a partire, diciamo, come un paradigma a partire dalle parti sezionate e morte, no, di cadaveri. Così già Piero Coppo, che era appunto uno, anche lui faceva parte di questi gruppi della critica radicale, psichiatra, insomma contestatore delle medicine tradizionali, ma giustamente rilevava Paolo Ranieri, sempre in quella famosa, diciamo, introduzione, sono 190 pagine al libro di cui vi ho parlato le scorse settimane sulla critica radicale in Italia, e che si intitola l'introduzione Ricordi e riflessioni, perché mette insieme tantissime cose, ma con questo spirito appunto che anche il tramandamento del errato della memoria storica parallelamente insomma porta a non capire nulla, no? Della contemporaneità, allo stesso modo in cui la medicina parte dai cadaveri dissezionati, e se si intende inquadrare la contemporaneità partendo dalle sconfitte o dal, diciamo, o meglio, cioè da quelle che sono appunto coloro che hanno consolidato il loro potere e hanno schiacciato insomma tutte le voci dissonanti e dissenzienti, succede quello che succede per la medicina, anche per la storia, insomma, per l'orientamento, insomma, per un tentativo di orientarsi nella contemporaneità. Al contrario, dobbiamo partire proprio dai movimenti, dalle sconfitte, insomma, ma con uno sguardo più qualitativo, che più qualitativo, insomma, sul livello di questioni poste, come sono state affrontate, come sono state messe in piedi, tentate, insomma, più di quanto questo vale, più di quanto, insomma, i risultati effettivi e anche le inevitabili sconfitte dovute al fatto, insomma, che è una guerra questa, no? Una guerra asimmetrica con il capitale, con le forze preponderanti contro lo Stato, eccetera. Da qui appunto passo a presentarvi il contributo che ho selezionato, che è appunto invece passiamo a Primo Moroni. Primo Moroni, agitatore, insomma, culturale, politico e conoscitore, insomma, di tutta la realtà controculturale sicuramente insomma di Milano, ma possiamo dire insomma per un una fase, intera fase storica di, sicuramente della realtà italiana, e non è nient'altro che quello che poi è stato sbobinato e messo su un opuscolo che si intitola Eroina, intervista a Primo Moroni su droghe e movimenti, e che è stato pubblicato l'anno scorso, marzo 2021, da l'archivio Primo Moroni Calusca City Lights di Milano, e per conto delle edizioni Colibrì, e dove appunto si parla, velocemente vi insomma vi preannuncio quello che verrà, insomma, che dirà Primo, e appunto no scusate è un'intervista realizzata nel primi anni 90, diciamo almeno quello che è importante, perché anche perché Primo non c'è più da, se non sbaglio, una ventina d'anni che ci ha lasciato. Questa intervista era stata realizzata con dei compagni lì, dei primi, appunto, del movimento, penso, della Pantera, di quell'epoca là. E, sono tre spezzoni, e il primo spezzone diciamo fa una un inquadramento di come si è emersa insomma la rivolta esistenziale nel quadro del neocapitalismo, insomma dell'affermarsi della modernizzazione, insomma del consumismo, insomma nei primi anni, da partire dagli anni 50-60. Questo è il primo spezzone, insomma inquadramento della rivolta esistenziale. E poi secondo spezzone viene messa in evidenza come a un certo punto questa rivolta si verticalizza, insomma con la politicizzazione indiscriminata e con i gruppi extraparlamentari. Ultimo spezzone, un ritorno all'orizzontalità con il 77, parentesi, Milano si parla del 76 perché il 77 non c'è stato, cioè si è anticipato, diciamo è finito prima, insomma, e quindi appunto questa nuova orizzontalità dove nascono le prime occupazioni non più abitative ma per ricerca di alternativa, insomma, alla socialità proposta dal sistema, e che sono i prodromi, diciamo, di quello che sarà poi il movimento punk anarchico e poi tutta, insomma, quello che è seguito poi negli altri 30 anni seguenti. E io direi che possiamo anche mandare finalmente questi contributi audio. Allora, diciamo che l'origine del problema del rapporto con le droghe nelle controculture underground degli anni 60, americane, tedesche, inglesi, italiane, aveva a che fare con lo stesso, mi rendo conto che faccio un discorso storico come premessa un po' complicato, ma non è possibile andare diversamente, aveva a che fare con lo stesso principio generale della critica del concetto di autorità che ho elencato prima per ciò che riguarda le istituzioni totali, famiglia, scuola, chiesa, Stato, giustizia, esercito, manicomio, carcere. Aveva a che fare con questo principio qua. Cioè avviene che quella generazione che passerà alla storia con la generazione della rivolta esistenziale, cioè quella degli anni 50 e 60, quindi non una generazione della rivolta politica, ma della rivolta esistenziale, che è cosa come noto diversa, si rende conto che l'organizzazione del capitalismo maturo nella sua fase più avanzata, che in termini tecnici chiameremo fordista, taylorista, è tutta verticale, l'organizzazione è tutta verticale, è basata sulla gerarchia. E la gerarchia è fatta di istituzioni totali, ma è fatta anche a sinistra in forma gerarchica. cioè i partiti comunisti hanno la delega, il sindacato, per cui c'è una direzione verticale, piramidale, a cui deleghi la rappresentanza dei tuoi interessi o della tua liberazione e chi lascia il sistema dei partiti. Quindi tutta la società fordista e taylorista è una società gerarchica, sia che sia un'espressione del potere, sia che sia un'espressione dell'opposizione, è comunque organizzata gerarchicamente ed è destinata a accelerare quello che viene chiamato il progresso o lo sviluppo, nel senso che quindi questa funzione è quella delle forze produttive e che dovranno dilatare all'infinito la produzione di fabbriche, di merci, di operai, di industrie, di autostrade, di automobili, di questo, e tutto questo verrà realizzato nel concetto dello Stato attraverso la rappresentanza delle varie parti, che è tutto di tipo gerarchico, è gerarchia. Vale tale quale, perché poi sarà finito, per il cattolico si riconoscerà nel vescovo del Papa, e vale per il comunista si riconoscerà nella direzione del partito, in quel caso togliato in Italia, oh, ma però vale per il capo reparto di una fabbrica, e vale per il giovane che nella famiglia ha la prima autorità che gli impedisce un'espressione diversa dai valori consolidati della famiglia monocreale patriarcale da cui proviene, per cui i genitori degli anni 50 e 60 sono genitori che hanno una concezione ben precisa di cos'è una famiglia, e quindi le ragazze devono stare a casa, i ragazzi hanno un po' più di libertà e l'obiettivo è prendere un titolo di studio e poi avviarsi al lavoro, sposarsi e fare dei figli, no? Tutto questo durava da 50 anni e però era stato metabolizzato dai soggetti sociali e era ritenuto a questo punto, a quel punto della storia, insopportabile, cioè nel senso che anche quando avevi il vantaggio di essere figlio della borghesia, di acquisire quindi a una scuola di interesse superiore, ti rendevi conto che il sapere che acquisivi era destinato più al tuo inserimento produttivo che non alla dilatazione della tua sfera individuale di libertà o di sapere. Era tutto funzionale alla produzione sostanzialmente. E quindi avresti incontrato il barone universitario come autorità che trasferiva il sapere in maniera autoritaria, considerato la famiglia, il vescovo, cioè si chiama rivolta esistenziale o anti-autoritaria per quel motivo, che mette in discussione l'assetto complessivo della riproduzione di quella che chiameremo soggettività. Ma se tutta la società è organizzata all'interno della riproduzione della soggettività stabilita altrove della possibilità di scelta individuale, di libertà individuale, vuol dire che la tua vita a 18-20 anni è stata determinata altrove la tua capacità di scelta, perché l'universo in cui sei cresciuto, familiare, scolastico, di quartiere, di città, l'universo in cui sei cresciuto ti ha suggerito una serie di valori familiari, ambientali, scolastici, che fanno sì che tutto quello che tu hai dentro a 18 anni, che viene genericamente chiamato spontaneità, l'universo, le 30 emotive, il tuo modo di pensare, non l'hai in realtà scelto, ma ti è stato trasferito interamente da una società verticale autoritaria, no? Che ti ha formato artificialmente il tuo essere nel mondo. Il tuo disagio, il tuo dramma esistenziale è di avere questo universo che è diventato sentimento, tonalità emotiva, impulso, comportamento, autorepressione, principi morali, e che non hai scelto di avere. Ti rendi conto che sono delle stronzate, ma le hai spontaneamente come emozione, no? Allora, quindi tu... Negli anni 70 c'è stata un'ideologizzazione moralistica dell'uso delle droghe dovuta a una fase di politicizzazione dei comportamenti collettivi giovanili, con la nascita dei gruppi politici organizzati, e per cui problema della liberazione di sé è stato trasferito nell'ideologia politica e non nella parte esistenziale quotidiana. Vuol dire che paradossalmente nei primi anni 70 la costruzione di grandi organizzazioni sovversive di sinistra produceva un'altrettanta verticalità speculare a quella del potere, però che veniva riconosciuta come rivoluzionaria. Quindi secondo questo tipo di schema la liberazione soggettiva doveva avvenire attraverso la politicizzazione o l'ideologia o l'organizzazione, non attraverso la sperimentazione di piccolo gruppo soggettiva, non attraverso la sperimentazione esistenziale, ma era tutto trasferito alla sfera della politica. Allora, qualsiasi comportamento individualistico o intimista o esistenziale viene considerato una regressione piccolo borghese. Allora si forma negli anni 70 nel paese italiano una spaccatura tra un'area di movimento che definiremo controculturale o esistenziale, di cui la rivista Renuto sarà l'elemento più importante. Ci forma questa spaccatura tra quest'area controculturale che prosegue con le proprie riviste, le proprie comuni, le proprie manifestazioni, vari gerbo, la musica, un processo di liberazione soggettiva e paradossalmente usando anche lei in qualche modo Marx dei manoscritti canonici filosofici, quello che sostiene che la liberazione di sé è la condizione prioritaria per la liberazione di tutti, cioè, quindi non il Marx del capitale che appunto già sull'organizzazione del partito, diciamo, e invece dall'altra parte una parte del movimento diventa verticale ideologico e dentro il partito, l'organizzazione, la classe operaia, vede in qualche modo l'identità di formazione del soggetto e la sua funzione di abbattimento dello Stato oppressivo, dello Stato del potere come oppressione. No? Le due ali non si sono mai più conciliate. Per fare un esempio di modello storico, l'unico grande tentativo dopo anni di contrasto avviene nel paese del Parco Rame del 76, che è stato l'ultimo. È stato l'ultimo. E come è noto si è tradotto in un disastro, cioè è proprio stata la dimostrazione scientifica, materiale, che non era possibile. Cioè o abbandonavi l'una o abbandonavi l'altra. Allora lì c'è questo tentativo in cui il leninismo e la controcultura esistenziale in un luogo simbolico che è il Parco Lambro si incontrano e però confliggono e viene fuori un flop, cioè, non avviene nulla, cioè viene un disastro. Del 76, quindi è l'anno di passaggio fondamentale, perché a quel punto nei primi 5 anni degli 70 diciamo che il problema della droga era pressoché scomparso ed era rimasto. L'eroina c'era poco, nulla, il primo morto di eroina in Italia nel 74. Era rimasto nella controcultura che era minoritaria in rapporto all'ideologizzazione politica del resto del movimento, era rimasta la pratica sì degli Spinelli, poi diciamo che c'era anche in lotta continua, cioè lo Spinello, sia pure non tollerato e legittimato. Questo anno di passaggio in cui c'è la fine dell'esperienza dell'ideologizzazione complessiva della vita quotidiana, e però c'è anche una certa deriva dell'area della controcultura che ha esaurito una parte dei suoi compiti storici, è un anno di passaggio in cui finiscono, insomma si esauriscono 15 anni di sperimentazione soggettiva e nasce brevemente un nuovo comportamento collettivo che è quello del movimento 77 che tenta di recuperare una parte dell'esperienza hippie precedente e però rivisitata 15 anni dopo e con l'aggiunta delle culture politiche consumate e una serie di altre questioni. Thank you. Sono avvenuto uno sconvolgimento, cioè, 66 è un anno straordinario di transizione, perché le sinistre per la prima volta nella storia d'Italia arrivano vicino alla maggioranza elettorale, arrivano al 49,9%, la gente che li vota spera in un sorpasso della DC e in un governo delle sinistre, come è noto questo non avverrà, perché il PC sceglierà di allearsi con la DC e quindi diventa una tragedia collettiva, perché un mandato di immaginario popolare diventa l'esatto opposto di ciò che ha determinato il successo delle sinistre elettorali, e che il PC e il sindacato si schierano con la Democrazia Cristiana per favorire la ristrutturazione produttiva, quindi il riassetto del capitale, e diventano i principali repressori dei movimenti, non che fossero stati molto tardi neanche prima, certo che in quel momento sono nello Stato e sono quelli che giustificano la repressione di qualsiasi comportamento. E questa breve generazione del 1977 crea questi luoghi e non li crea, anche lì ricrea di nuovo questa orizzontalità che era tipica dei movimenti pre-68. Allora, abbiamo avuto un'orizzontalità dei comportamenti che era risposta all'autorità e verticalità degli anni 60, si è ricostruita la verticalità anche nei movimenti di contropotere dell'estrema sinistra negli anni inizio degli anni 70, accade tutto questo e si riforma una certa orizzontalità nel movimento 77 o nel circolo del proletariato giovanile, milanesi o romani. Quando dico orizzontalità vuol dire che invece di fare riferimento a una sede centrale verso cui si va tutti, così va tutti, per cui si partirà dalle periferie per andare alla sede di Rosso e Medici Primi invece che alla sede di Lotta Cantina e delle Cristopesi invece che alla sede di Avvocati Operai e via Vettere, si crea nei propri luoghi di realizzazione dell'esperienza esistenziale del proprio universo vitale il luogo di riferimento. Qui lo si creerà alla Barona, a Quartoggiano, a Pero, a Sant'Ambrogio, a Piazzale Corvetto, cioè nel luogo in cui tu ti sei determinato come soggetto sedicenne, quindicenne, andrai ad occupare, perché fino a quel momento le occupazioni sono state tutte in funzione proletaria e per il diritto alla casa, non per uso sociale. Basti pensare che le sedi delle organizzazioni extraparlamentari e consulari erano tutte sedi non occupate ma pagamento di affitto. Questo vale per la sede di Lotta Cantina, dove erano gli operati, dove era il manifesto, perché non erano quindi occupati. Quindi non era posto all'ordine del giorno il problema dell'occupazione di un luogo come uso sociale, politico, sociale, culturale, era posto all'ordine del giorno l'occupazione delle case come un diritto proletario, che è altra cosa dell'uso. Invece il circolo del proletariato giovanile introducono questa novità dell'uso dell'occupazione di uno spazio sociale come realizzazione della propria soggettività, dei propri universi vitali e come luogo di riferimento del proprio territorio. E quindi non sono più convergenti verso il centro della città, dove c'è la verticalità del potere, ma invece disgregati all'esterno. Diventano indiani metropolitani perché si considerano come dei soggetti che vivono nelle riserve, mentre il centro storico della città è il territorio dell'uomo bianco, invece noi siamo nelle riserve e ci andiamo a appropriare ogni tanto della ricchezza dell'uomo bianco nel centro della città, e quindi andremo a fare le autoriduzioni al cinema, andremo a fare gli espropri proletari nelle vie shopping, con un tipico azione da indiano della riserva che scende nel territorio dell'uomo bianco, ma la realizzazione e la liberazione di sé non viene concepita nel complesso del rapporto con il potere, ma nel vissuto quotidiano orizzontale del proprio quartiere, della propria zona di riferimento. Quindi riprende tutto il percorso anti-autoritario, anti-leninista degli hippie e dei bip, è trasversalista, come giustamente dirà. Il ritorno all'uso ritorno massiccio all'uso dello spinello, che era tipico, che però non era mai cessato in realtà, voglio dire, era moralizzato da Lotta Cantina. Si pensi che Rostagno nel 74 venne mandato a fare dirigente di Lotta Cantina a Palermo, Rostagno però era ammazzato anni dopo dalla mafia, e disse che era giusto fumare gli spinelli. E in prima pagina su Lotta Cantina venne fuori un consiglio che diceva che lo stagno si era fumato il cervello. Questo siamo già nel 74, per cui la dice lunga sul moralismo che si era formato nei gruppi politici verticali. Ora, tutto questo era stato contrario di quello che praticava e diffondeva Renudo, l'area della controcultura, che era parallela, cioè questo tentativo del 66 di fondere due aree non riesce, come noto. E però, diciamo che nella generazione precedente fa questo tentativo, al Parcolama doveva esserci, come giustamente dice nella sua canzone, il proletariato giovanile, nella canzone, come si chiama, Tranquillo Festival Fondo di Paura, quello che c'è non si riconosce nell'organizzazione, assalta il banco dei panini dei gruppi, distrugge gli stand, si riapproprio di fa un casino e produce uno scontro terrificante, sono 100.000 persone, non sono mai più viste in Italia, nel luogo 100.000 persone, quell'anno c'erano 100.000 persone che sono come chiuse in un ghetto, il comune toglie la luce e non concede la luce, per cui sono lampade, cose accettivene, non c'è poca acqua, quindi si forma una situazione igienica molto difficile, ci sono gli assalti ai supermercati di Palmanova per riappropriarsi di me, si arriva tutta Italia, questi soggetti, quindi loro pazzano via tutto quello che trovano, attaccano l'organizzazione del festival, poi attaccano alla guardia operaia, alla lotta continua e anche Rosso, devo dire, attaccano e distruggono e portano via la merce dagli stand, arrivano nel tentare di calmare, fanno una patta del comune, l'Alemagna manda questi camion con i polli da distribuire e loro attaccano i camion che buttano e giocano a pallone con i polli. Allora, ribadisco che se avete persi qualcosa, avete sentito, insomma, l'audio era non proprio il massimo punto di vista qualitativo, e ritrovate la registrazione, ovviamente io l'ho trovata anch'io, è pubblica, diciamo, la trovate cercando, insomma, nel sito dell'archivio Primo Moroni. Questa pubblicazione, dove c'è la sbobinatura, è appunto realizzata dai compagni dell'archivio Primo Moroni di Milano, si intitola Eroina, intervista Primo Moroni su droghe e movimenti. E siccome siamo in gli sgoccioli io a questo punto mando veramente un abbraccio, un saluto, prima di dimenticarmi, a tutte e tutti quelli che ci hanno ascoltato stasera o che ci riascoltano in un altro momento usufruendo del podcast, che tutti voi potete recuperare andando sul blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ma è sufficiente inserire sul motore di ricerca, scrivere Zardins Magnetics e vi viene, salta fuori direttamente il risultato, insomma, che vi interessa. Per contatti diretti, insomma, con l'Assemblea Permanente contro Carcere e Repressione, scrivete liberetutti@autistiche.org. Infine, dovessero ascoltarci, si trovano in restrizione, insomma, della loro situazione, insomma, in situazione di restrizione delle loro libertà, possono scrivere alla casella postale 129, indirizzando all'associazione Senza Sbarre, appunto, casella postale 129, indirizzando a Trieste, il codice di deviamento postale 34121. Mi sembra che non c'è altro da aggiungere, e non faccio altro che rimandarvi un miglior saluto, insomma, e di un arrivederci, un ciao, un mandi al giovedì prossimo e a tutti noi. Ultima cosa, per salutarci adesso manderemo un brano che è la versione italiana realizzata, insomma, con il testo di Luigi Tenco, del compianto Luigi Tenco, di un classico del repertorio antimilitarista internazionale, internazionalista anche, e che si intitola in italiano Padroni della guerra. Di nuovo un saluto. Abbassa il microfono della chitarra. RAPM 1567, primo brano, prima. Padroni della terra, vi scrivo queste righe che forse leggerete se tempo avrete mai. Ho qui davanti a me il foglio di richiamo, io devo ritornare in guerra lunedì. Padroni della terra, non lo voglio più fare, non posso più ammazzare la gente come me. Non è per farvi torto, ma è tempo che vi dica, la guerra è un'idiozia, non ne possiamo più. Da quando sono nato, dei figli son partiti, dei padri son caduti davanti agli occhi miei. Ho visto mille madri che han perso tutto quanto e ancora vanno avanti senza saper perché. Al prigioniero poi han rubato la vita, han rubato la casa e tutto quel che ha. Domani alla mia porta verranno due gendarmi, verranno ad arrestarmi, ma io non ci sarò. Lontano me ne andrò, sul mare, sulla terra, per dire no alla guerra, a quelli che vedrò, e li convincerò che c'è un nemico solo, la fame che nel mondo ha gente come noi. Se c'è da versar sangue, versate solo il vostro, signori, ecco il mio posto, io non vi seguo più. E se mi troverete, con me non porto armi, coraggio su gendarmi, sparate su di me.